America 24. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi vorrei parlarvi di psichiatria infantile, un tema molto importante. Non è un caso che ve ne parlo oggi. Ho cercato di approfondirlo perché alcuni giorni fa e negli ultimi giorni ci sono stati degli eventi qui a New York. C'è stato intanto un convegno dell'American Society per la psichiatria infantile, dunque l'associazione degli psichiatri dell'infanzia americani. Ma c'è stato anche un evento italiano. Il professor Ernesto Caffo, che è professore all'Università di Modena e che ha fondato il Telefono Azzurro, è venuto a New York, ha organizzato un evento al quale hanno partecipato degli psichiatri italiani che si occupano di psichiatria infantile, un evento a cui è stato dato tra l'altro un premio anche a un personaggio molto importante per questo settore, David Schaffer. Ecco, con noi ai microfoni di America 24 il professor Ernesto Caffo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Ecco, vorrei intanto chiederle perché non ci racconta di Telefono Azzurro e dell'idea di portare Telefono Azzurro qui in America. E possiamo dare una notizia? State per farlo? Sì, diciamo che abbiamo costruito Telefono Azzurro 23 anni fa in Italia, l'abbiamo portato in varie parti d'Europa. Oggi esiste una rete europea di linee telefoniche di ascolto dei bisogni dei bambini di essere aiutati e supportati. Abbiamo deciso di venire in America perché l'America è una grande sfida per il futuro della protezione dell'infanzia. Ecco, ma è bizzarro, noi abbiamo Telefono Azzurro, in America non c'è nulla di simile. Siamo più avanti almeno su qualche cosa? Diciamo che siamo più avanti sul piano legislativo, nel senso che è possibile in Europa avere linee telefoniche come le nostre. In America ancora oggi non è facile, perché c'è un obbligo di denuncia di tutti i casi di sospetto abuso, che fa sì che a rispondere al telefono non possono essere soltanto psicologi o psichiatri, ma devono esserci anche dei giuristi, e questo non è sempre facile inserire in un team di lavoro. Quindi come si può aggirare questo problema se davvero volete portare l'esperienza di Telefono Azzurro, fare un pale blue phone americano? Questo potrebbe essere... Ma l'obiettivo è quello di lavorare con le amministrazioni americane per riuscire a superare, come è successo in altri paesi anche anglosassoni, questo limite dell'obbligo di denuncia, cercando di trovare modalità e procedure tali da permettere di segnalare da parte dei bambini situazioni di abuso e di violenza senza necessariamente attivare un rapporto alla giustizia. Sta crescendo il problema dei disturbi fra i ragazzi, fra gli adolescenti, fra i bambini? L'aumento di disturbi mentali nell'adolescenza è sicuramente un dato oggettivo in tutte le parti del mondo. I comportamenti suicidari, i comportamenti da dipendenza patologica, i disturbi alimentari sono in aumento, e questo dà un segnale di una sofferenza profonda che vive la società e che molte volte ricade sui ragazzi più fragili. Quello che è importante è attivare processi di prevenzione. Se noi dovessimo dare un consiglio, un aiuto a chi ci ascolta, che magari vede una reazione apparentemente problematica, irritata, violenta, aggressiva da parte dei propri figli, magari anche molto giovani. Ecco, qual è il consiglio dell'esperto? Bisogna intervenire prima che succeda qualche cosa, che ci sia una degenerazione? Ma da una parte occorre ascoltare il disagio dei ragazzi, condividere con loro le difficoltà che spesso molte volte restano se non seguite, ascoltate nella mente del ragazzo, che può trasformarsi questo tipo di situazioni in un disagio permanente, in azioni, in agiti assolutamente pericolosi per lui e talvolta anche per gli altri. Dobbiamo cercare di identificare precocemente situazioni di rischio reale e in questi casi chiedere un aiuto a un esperto, cercare di far sì che i ragazzi tra di loro possano parlare di questi problemi, perché la malattia mentale molte volte si nasconde anche in realtà talvolta non facilmente identificabili all'apparenza. Quindi occorre sicuramente far sì che si vada di più di salute mentale e che si possa intervenire molto più precocemente di quanto si interviene ora. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Luisa Todini, presidente di Todini Costruzioni, ma presidente di Comitato Leonardo, un comitato che promuove le eccellenze italiane all'estero. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno dottoressa Todini. Dunque, qui a New York ci siamo visti per una serata dedicata al Telefono Azzurro. Ecco, sì. Mi ha colpito molto il fatto che in America non c'è il Telefono Azzurro e che Caffo, lei e altri state cercando di portarlo. Ecco, può dirci qualche cosa a questo proposito? Sì, nei primissimi anni 90, mi fa piacere ricordarlo perché anche l'altra sera eravamo all'Hotel Michelangelo della catena Star Hotel, ci riunimmo per le prime volte anche insieme alla signora Matilda Cuomo proprio per raccontare quello che già il professor Caffo e il telefono azzurro stavano facendo. Ecco, quando si parla di eccellenza del Made in Italy e dell'italianità non c'è soltanto il food, il beverage, la moda, le costruzioni e la meccanica, ma c'è anche la capacità di mettersi a disposizione degli altri e di inventare cose egregie come il telefono azzurro. Come si fa una cosa di questo genere? Come si trapianta un esperimento così molto italiano, europeo, in America? Intanto le cosiddette best practices, cioè le buone pratiche che vengono copiate. E noi spesso siamo un po' troppo esterofili e immaginiamo di dover copiare dagli altri, invece ci sono tante cose buone e tante eccellenze che possiamo esportare. Quindi raccontare quello che si è fatto in Italia in questi anni, gli esempi anche con i numeri alla mano di quanti casi di bambini e di adolescenti sono stati risolti attraverso una invenzione banale ma rivoluzionaria di una telefonata, quindi un numero facile e semplice che un bambino può comporre e dall'altra parte gli risponde una persona amica, una persona preparata psicologicamente, perché poi ricordiamo il telefono azzurro è un'organizzazione che raccoglie psicologi e psichiatri, persone che sanno parlare con il bambino attraverso una linea telefonica, perché il bambino molto spesso ha bisogno del contatto fisico, del contatto visivo, invece attraverso una linea telefonica deve imparare ad aprirsi e raccontare. Ecco, questo noi stiamo cercando di raccontare negli Stati Uniti, partendo magari dalla città di New York e dallo stato di New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Ricordiamo quanto sia preziosa, importante la vita dei bambini con questa canzone universale, Tears in Heaven di Eric Clapton. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.